Senza sigla, Felice Came e Carlo Oliva presentano La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano. L'indice prevede di parlare di classifiche, di provvedimenti governativi, automobili e bistecche e argomentazioni.